cura la forza che serve a camminare, picchiare ancora contro e non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. Ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due o tre vizi al giorno, di farmi trovar lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia. Abito sempre qui da me, fra chi c'è sempre stato e chi non sai se c'è. Al mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. La forza di starvi a raccontare le storie che ho già visto e quelle da vedere e tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. Ho ancora la forza di chiedere anche scusa e fare la partita giocando fuori casa e dirvi che comunque la mia parte ve la voglio garantire. Abito sempre qui da me, fra chi c'è sempre stato e chi non sai se c'è. Nel mondo sono andato, dal mondo son tornato sempre vivo. E guarda che ne serve per rendere leggero il peso dei ricordi e far la conta degli amici andati e dire ci vediamo più tardi, più tardi. Abito sempre qui da me, fra chi c'è sempre stato e chi non sai se c'è. Col mondo sono andato, col mondo son tornato sempre vivo, sempre vivo.